Savonarola, il frate che scuoiò Firenze, prose scelte, un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, il di cui bisnonno abitava un pianeta dove il bisonte americano pascolava per l'intero Nord America in numero di 30 milioni di capi e veniva cacciato in maniera sostenibile dai nativi americani, e lette da me, il cui bisnonno abitava un pianeta dove il bisonte era quasi estinto e contava meno di 100 capi sparsi in qualche riserva statunitense perché cacciato in maniera insostenibile da chi nemmeno era nato in America. D'altra parte, il bue mangia il fieno perché si ricorda che è stato erba e comunque con un sol bue non si può far bel solco. Serio, capitolo 31. Oi, madonna dell'impruneta! Ma nel mentre il Savonarola si taceva, alle cose della Repubblica andavano di giorno in giorno rapidamente peggiorando. Gli imperiali, accresciuti dai milanesi e veneziani, già stringevano d'assedio Livorno in numero di 4.000. Le navi venete tenevano il mare e chiudevano il porto, mentre un drappello delle loro genti era al ponte di Sacco per impedire qualunque comunicazione fra Livorno e il campo di Pisa. I fiorentini non pertanto provvedevano ai loro stringenti bisogni con un coraggio degno dei loro antichi tempi. Mandavano al campo di Pisa Antonio Canigiani perché rimettesse disciplina nell'esercito disordinato dopo la morte del Capponi, e gli ordinavano di restringere le genti a Montopoli per tenersi pronto ad accorrere dovunque il bisogno e i movimenti del nemico lo chiamassero. Bettino Ricasoli, assai reputato per la sua energia e capacità militare, comandava in Livorno, ed ora i 10 della guerra vi mandavano altri 300 uomini d'arme guidati dal conte Cecco, il quale, profittando della oscurità della notte ed una pioggia di rotta, passava per mezzo dei nemici ed entrava in città. In questo modo si riusciva a fare più di una onorevole sortita, nelle quali gli imperiali vennero battuti. Ciò che, fra tante avversità, aiutava i fiorentini era non solamente la incapacità dell'imperatore nel dirigere la guerra, ma ancora il trovare egli nei veneziani e nel Moro più ostacoli che aiuto. Essi volevano bene opprimere Firenze, ma non volevano però levare un altro potente in Italia, onde spingevano l'imperatore e spinto poi lo arrestavano, tanto da fargli molestare il nemico, ma non soddisfare l'ambizione che aveva di segnalare la sua venuta in Italia con qualche gran fatto d'armi. Era inoltre sorta una nuova discordia fra i veneziani e il Moro, non volendo alcuno di essi permettere all'altro d'occupare Livorno finita che fosse la guerra. Per tutte queste ragioni i fiorentini avevano potuto durare sino ad ora non solo senza cedere a tanti nemici e tanto più potenti di loro, ma anche qualche volta battendoli. Non si poteva però continuare più a lungo, giacché quel che le armi nemiche non facevano cominciava ora a farlo la fame, e a togliere ogni altra speranza arrivava la nuova che gli sforzi fatti dai mercatanti fiorentini in Francia per soccorrere la patria erano stati tutti invano. Essi avevano assoldato il conte d'Albigeon con la sua gente, avevano assoldate molte navi e caricatele di grano comprato a loro spese, ma in sul momento di partire il conte s'era ricusato di venire in Italia, e le navi, spaventate da un grosso temporale che avevano per via incontrato, s'erano parte tornate a Marsiglia e parte, allargandosi sul mare, avevano preso diverso cammino per speranza di maggiori guadagni. E quando pure fossero venute innanzi a Livorno, come mai potevano entrare nel porto che era guardato dai veneziani? A Firenze perciò lo squallore era cresciuto a un segno che non si potrebbe con parole descrivere. Sul volto di ognuno si leggeva lo sgomento dell'avvenire, su quello dei popolani poi erano dipinti lo stento e i travagli della fame patita. I contadini non di rado si appoggiavano estenuate ai muriccioli delle vie e vi morivano per mancanza d'alimento. La peste ogni giorno faceva qualche progresso. Pure, tanto lo spirito di parte può accecare gli uomini che in questa universale miseria appareva che gli arrabbiati ne trionfassero. Andavano ad alta voce gridando: ora finalmente siamo tutti chiari che il frate ci ha ingannato, ecco le felicità da lui promesse a Firenze. E già parlavano di cedere, ardivano pubblicamente sparlare del nuovo governo e dicevano che era venuta l'ora di mutarlo. La signoria, non sapendo più a quale partito appigliarsi, ricorreva agli uffici divini e ordinava che si facesse con una solenne processione entrare in Firenze quella miracolosa immagine della Madonna dell'Impruneta a cui il popolo fiorentino soleva sempre ricorrere nelle sue avversità. Ma la sola cosa che ad ognuno pareva potesse veramente confortare il popolo in tanta avversità era la voce di quel frate che tutti vedevano ora con dolore e con disapprovazione tacersi, onde la signoria tornò di nuovo a lui, supplicandolo e quasi imponendogli che non mancasse al dovere verso la patria, non volesse permettere che quel popolo, il quale aveva in lui riposta tanta fiducia, restasse ora fra tanti pericoli e in tanta miseria senza il conforto almeno della sua parola. Il Savonarola, che già da più tempo era crudelmente afflitto nel vedere lo sgomento, lo squallore e la desolazione di quel popolo, non seppe resistere alle nuove istanze della signoria e il giorno 28 di ottobre ritornava finalmente sul Pergamo. Quanto diverso dal solito era l'aspetto del suo uditorio. Su tutti i volti stava dipinto lo sgomento del presente e il terrore dell'avvenire. Ad ognuno pareva che fosse vicina la fine del governo popolare, che gli arrabbiati dovessero ben presto trionfare e che alla fame e alla guerra dovessero succedersi gli esili e le condanne. Tutti gli occhi si volgevano dunque a lui, pieni di incertezza e titubanza. «Io non avrei dovuto parlare, ma io vengo per obbedire alla signoria e per invitarvi un'altra volta alla penitenza. Voi siete chiari e io vi dico che sono chiaro io e che ogni cosa da noi detta fino a un minimo iota si deve verificare. Io sono chiaro che Iddio aggira il cervello d'Italia e che molti saranno ingannati. Questo flagello pare una cosa e sarà un'altra. Tu sei chiaro di che cosa? Che sono vicine le tribolazioni? Che tu combatti contro a Cristo? Sappi che il bene promesso a Firenze verrà e che i cattivi avranno l'inferno in questa vita e nell'altra. Siete adunque chiari che se non mutate vita avrete guai? I vizi continuano sempre, o Firenze, si giuoca, si bestemmia e in questo modo voi vi tirate addosso il flagello. Orsù, fate questa processione che sarà buona cosa e se voi ricorrete a Dio come si deve, io mi confido che si avrà qualche grande grazia e che non dovremo avere paura di nessuno». Così parlava il Savonarola quel giorno, ma in verità, sino a che durava il pericolo imminente, quelle parole d'una fiducia tanto cieca davano agli arrabbiati nuovo argomento di mettere in canzone il frate e i frateschi. Non di meno al popolo era già un gran conforto che egli predicasse, e fino a tanto che la sua voce risuonava sul Pergamo, sembrava che Firenze non dovesse temere nuove sventure.